tua anima sopra un albero, quando il ramo spezzerà. Quando vuoi, suonala per me, suonala per me. Libera la tua anima nel ritmo in blues. Libera la tua lirica roca del sud. Libera la tua armonica, l'assento, libera la tua armonica.